da un po' che ne sento di tutti i colori. Io ne resto fuori da sti stonati che fanno i cori. Pochi fatti, tante parole, tanti fatti, fatti di parole. Infatti parlano i fatti, è da un po' che ne sento di tutti i colori. Io ne resto fuori da sti stonati che fanno i cori. Pochi fatti, tante parole, tanti fatti, fatti di parole. Infatti parlano i fatti. In questo continente non conti se non conti niente. Quindi fatti due conti se c'è il rap incontinente. Cosciente, consenziente, senza consenso altrui. Conservo luce per illuminare il clou di sti anni bui. Tu i valori non apprezzi e sei un vigliacco. Accusi lui ma in realtà non lo conosci affatto. Non sei coerente coi principi dell'asfalto. Sei il perfetto contrario di quello per cui combatto. Sei l'effetto contrario che contraggo. Ma una volta sola, perché con l'asfalto c'ho contatto. D'acqua è sola, solamente che ultimamente gli ultimi fanno un po' gli schizzinosi tra la gente. Allora comprati uno stereo, perché per Natale ti regalo una cassetta di rap serio. Così ti sturi un po' le orecchie e in più sciacquati la bocca. Se ti puzza di latte, lattante, ci prendi gusto. Ma non hai contato che l'età non conta, solo se spingi il giusto o il giusto flusso che travolge le persone come un fiume in piena. Nel pieno dell'alluvione la mia gente è gente seria, con la testa sulle spalle, stanca di sentire balle. Va dalle stalle alle stalle senza stelle dentro il cielo, ma brilla di luce propria perché il rap lo fa serio. È da un po' che ne sento di tutti i colori. Io ne resto fuori da sti stonati che fanno i cori. Pochi fatti, tante parole, tanti fatti, fatti di parole. Infatti parlano i fatti. È da un po' che ne sento di tutti i colori. Io ne resto fuori da sti stonati che fanno i cori. Pochi fatti, tante parole, tanti fatti, fatti di parole. Infatti parlano i fatti. Sono il viandante sulla retta via fondante. Volo sulle teste come se il testo fosse un aliante. Vivo il tempo che tengo istante per istante per produrre trick sopra i beat come uno stuntman. Sta a te decidere chi è un uomo di mondo e chi il mondo l'ha visto solo sull'Atlante. Ogni parola a sé stante vale se scritta, cioè script a manent, perché non è volante. Se ne ho tante, vado in studio di registrazione, così la questione si fa rassicurante. No, preoccupante, come chi assicura sicurezza ed è in stato d'ebbrezza al volante. Corre, percorso da una pezza pesante, percorre un percorso pericolante. È inutile chiedersi chi sia il mandante. Si è attirato dritto e non ha visto un tornante. La situazione è limite, ma il limite è limitante. Se chi si atteggia milite non fa il militante. Milita parole, critica chi vuole. Non smuove le persone, un coglione parlante. Parla, parla, che con la testa vado altrove. Faccio, non faccio la figura del cialtrone. Sono fatti, fatti, di fatti, infatti le parole non parlano come fatti, non parlano da sole. È da un po' che ne sento di tutti i colori. Io ne resto fuori da sti stonati che fanno i cori. Pochi fatti, tante parole, tanti fatti, fatti di parole. Infatti parlano i fatti. È da un po' che ne sento di tutti i colori. Io ne resto fuori da sti stonati che fanno i cori. Pochi fatti, tante parole, tanti fatti, fatti di parole. Infatti parlano i fatti.